devo capire. Capito, mi sono fermato già, capito, fermato, ho continuato perché ho visto che era a pagamento 6 euro per una settimana a seguire, non so, più giorni, 12 euro, una cosa del genere. Ma come faccio a pagarglielo io, scusa? Ah no, io non penso che... A meno che abbia cambiato da poco, perché io non ne ho messo fotografia da niente, ho messo solo la luce e basta, tutto lì. Mi hanno telefonato roba 526 e poi l'ho tolto, ho detto che l'avevo già venuto. Su subito.it. Che non ne so, bugia. Guarda, aspetta. Così te lo dico subito, aspetta, vediamo un po' se mi puoi aiutare tu, mi sono già fatto, aspetta. E io ho seguito le voci, non è che abbia fatto mille volte, ho fatto una volta solo, io ho seguito tutte le voci, ho compilato dove c'era da compilare. Allora, Sardegna, ok, allora, inserisci annuncio, giusto? Mettici l'annuncio, vendesi. UHF, ottimo stato, eccetera, eccetera. Ascolta, qua non c'è... Qua non c'è selezione categoria. Elettronica, informatica, console, videogiochi, audio, video, fotografia e telefonia. Non c'è radio, nulla. Elettronica. Ma la voce elettronica non c'è. C'è scritto sì nella pagina, però non me la fa cliccare. Allora, elettronica c'è scritto informatica, console e videogiochi, audio e video, fotografia e telefonia. Dove c'è la telefonia, mettici anche quello, dove c'è un mezzo di comunicazione, lo stesso come il telefono. Poi faccio altri. Prova altri a vedere. No, no, ma c'è una cosa altri. Poi regione Sardegna. Cacchio, Sardegna. Ecco qua, Sardegna. Poi provincia Sassari. Comune. Aspetta, va a far culo. Comune Sassari. Ecco qua. Comune Sassari. Nome Luca. C'è già ancora la pagina salvata. Vedi? Ecco, 200 euro ho messo. 200. 200 euro. No, allora, qui c'è l'annuncio privato, non mostrare il telefono all'annuncio, per forza lo devo mostrare, aspetta, vado avanti. Il telefono poi te lo chiede sicuramente. Sì. Aspetta, l'ho già messo. Non avere problema qua, ne farlo partire e basta, l'annuncio non lo leggi. Vendo, ICO, no, VU, no. Prendo il comicino 17 VHF UHF veicolare, così è. Vendo VHF UHF oppure ICOM VHF UHF VAT, metti quanto va, ottime condizioni per il modico prezzo di 100 euro. 100 euro? Ma 100 euro rimane qua, no, veramente. 100 euro, manco, ma neanche faccio di 50 esce. No, assolutamente, rimane qua, è nuovo già. Allora, funziona bene, una bomba. Qua te l'ho detto scherzato, perché già dici, ma che è quello lì, ma che è quello che ti devo la vettore? No, no. Antenna, ecco, cazzo, l'ho cazzata per niente. Non va nuova. Ce l'ha fatta, manca così, il palazzo finito, a vederlo tutto pitturato e fatto, hanno finito adesso. Allora già, qua ho scritto, vendo ICOM 507 VHF UHF, veicolare, 50 watt in VHF, 25 in UHF, poi cosa scrivo? Se è nuovo, nuovo scrivi ottime condizioni. Telefonale, ore passi, cosa ti posso dire? Oppure, cosa ti posso dire? naturalmente telefonare o passi cercare di Lucca, boh. Come qua, capito, so che no che... Ok, adesso qua mi dice di cercare la foto, vediamo un po'. Allora, immagini, aspetta, c'è una foto diretta. Aspetta, eccola qua. Quando? Aspetta. Poi qua mi dice, accetto le condizioni di utilizzo del servizio. Con l'avvio la presente muro. Ok, ci siamo. Io faccio continuo. Continua. Ah, scrivi il titolo dell'annuncio. Cosa mi dice qua? Scrivi il titolo dell'annuncio. Titolo, prendesi. VHF, VHF, eccetera, eccetera, quello che avete tutto. Mi fa mettere la parola vendition vendo, no, non la fa mettere. Oppure metti. VHF, VHF. E poi ci sarà scritto lo scorso che hai scritto tu. No. KF, potenza, watt, eccetera, eccetera, la descrizione dell'articolo. Ma che cosa gli hai fatto? Sto toccando fuori questa sera. Allora, aspetta un attimo. Forse qua è, aumenta la visibilità, ottieni più contatti. Scegli uno dei seguenti servizi extra, aggiungilo al tuo annuncio, fa contattivo. Allora, rimedi in cima ai risultati ogni 7 giorni, prezzo 6 euro, cioè metti in vetrina 6 euro, metti in cima ogni 7 giorni più, metti in vetrina prezzo 9 euro, capito? Se io queste cose qua non le metto, poi dice scegli il password, ci posso mettere anche la password, no? Non mi so, okay. Ci ho messo la password. No, aspetta, però mi sei in grande, se no poi mi sbaglio e non me la dà. Allora, forse già, se io non vado, allora, se io voglio queste cose qua a me, hai capito? Le metti in cima e hai risultati ogni 7 giorni, non è di più, però pagando. Però se lo metto normale non pago niente. Sì, come Badu, dai. Badu non sei mai andato, Luca, a cercare donne. Mai, già, mi piace Badu. No, è un casino in chi, per carità, no, no, no. Ah, c'ho Facebook così. Già, mamma, già per via quel programma che non dico, già piccolo. Ti volevo dire già che stasera mi sta piacendo un bel di più di prima. Perché ho aumentato il mic lì? Era basso, l'avevo lasciato basso apposta io. Basso apposta. Stasera ho provato perché non mi sentivo bene in cuffia, invece era abbassato dal... Hai visto quel regolatore del volume che c'è nel filo? Era abbassato da lì, invece ho alzato la macchina e poi l'ho lasciato così. Chiappa, stasera mi sta veramente piacendo. Quando io la sento bene la radio, a me piace. Ciao Antonio, va bene, almeno una cosa che vada bene c'è. Io credo che andrà meglio, che tu metterò questa volta che secondo me dovrà pompare di più. Adesso sta pompando uguale come quando era le tenombe. Alla grande struttura già. Così, questo a me piace. Liscio. Cappa. Oh, usi andava vecchia. Anche con quel controllo va bene. Che il segreto è anche quello per farlo funzionare bene. E capito. Non è bisogno di quello, io ho la potenza al minimo, mia tu. Se buon al massimo guai, ma ce l'ho al minimo, non va manca 10 watt. Chiaro. Al minimo deve andare accompagnato con Gigi D'Agostino. È capito? Cioè quando li fai così è buono, va alla grande, no? Non c'è nessun difetto. Bene. va bene, va bene. Sono per male del cuore a Barone. Puta, non si toccare, non toccare. Così va bene, eh? Anche parlando da lontano va bene così. Va che va bene, va benissimo. Non toccare le chiche, guai. Lascia stare. Va bene, anche tu, non tocca. Oggi, allora, ti piace subito appunto il segnale ai tuoi amici, però non ti scrivo, eh? Ah, verifica l'annuncio, un attimino, ti scrivo per segnalarti un sito che non ho trovato, ok, invia, ho dato un messaggio, vediamo un po' se me l'ha confermato, poi ce l'ho fatta. Allora, Luca ti scrive per... Ah, no, ok, ho letto male, invece di mettere... altri tipi di email, no? Abbiamo messo tre email mie, io mi sono mandato un messaggio da solo. Allucinante. Antonito. Da, dimmi. Mi chiama, stavo mettendo. Ora Gabra. No, io già ce l'ho già io. Stasera pigiamo. Pronto alla corsa. Ragazza, ma non contento stasera, dai. Perché tu? Cos'è successo di bello? Vinto hai? Oh, negativo. Ah, beh, quando io sento bella pippante, a me mi piace così. Ah, fa una bella vista, vedi la bilibolo tu uguale. Già, stavo pensando. E pensaci, perché questa qua dà soddisfazione, una bella radio, una bella radio. Ma è completa. Non ce l'ho fatta già, boh, non me la vado là. Ci metto i con MC 207. Nulla. Non me la vado là. Mi dà i con MC 207, altri i con gli altri siti. Ma porco Giuda. Che palle, ragazzi, se ci annuncio. Mi la devo io, però, boh, non lo so. Prova a vedere, metti subito .it, metti la salda e guarda se ci sei. Fatto, non me lo va già. E allora non l'ha scaricato. Sono sempre qua, vedi. E sul tuo annuncio gratis. Figuri a tutti. Com... Ma non è buono, non ci buca tu bene. Comunque già, che per questo sono molto affezionato, lo sai. È un grido. E va bene che quello va bene. Già, va. Sono molto affezionato a questa radio. Allora, perché mi è andata bene dal primo giorno che sono stata qua. Quindi... non lo so, anche le altre già le uso, però non è più, non più affezionato, non lo so. Tu vai sul computer e guarda ITT880, è un bel apparecchio veramente, costa 99 euro, una cassa che ha 400 canali, e vai mi rubi le barapanna. Sì, no, di chi lo fa? Non è di qua, mi pare che siano... Non mi ricordo se sono giapponesi o che cosa. ITT880. È una bella radio, veramente, tutta blu, c'è un bel di canali, c'è un bel di cose, noios blanker. Che la sta vendendo? Per la comunicazione? No. Sì, adesso non me lo ricordo, ma se tu metti i siti 880 te lo dà. Ma cosa ha? Ecco, cosa sta? Ascolta, AM Radio, mi pare che sia, AM Radio, con la H iniziale. Sì, ma noi cosa vogliamo, che prestazioni ha? Ecco. Aspetta un attimo, bianco un attimo, se non chiama. K. Avanti, Luca. Sto provando, aspetta. Affanculo. Aspetta un attimo. aspetta. Quindi la foto l'ho rimessa. Continua. Vedi, invece qua selezionare. Ah, selezionare provincia, Sassari. Un po' inserire più annunci. C'è già, ma perché non me lo dà a cacchio? Vedi, non puoi inserire più annunci con lo stesso titolo. Ah, vuol dire c'è già. Vabbè, sei tu che non lo sai cercare. Non lo sai cercare. Sei andato a vedere questo TT 880, Luca? Aspetta, lo guardo. Come si chiama TT? TT. Imola. Torino, Torino. Torino, Torino. 880. 880. Cabo. Cabo. Aspetta, non... Qual è il TTTT? Cos'è, baracchino? Aspetta, coppia. CB. Cazzo che trove? TT. No, ITT ho detto tu. TT. Sei sbagliato, ti sei già. Cazzo, bellino, Aspetta che ce l'ha. Aspetta. Mi senti? Ma cosa? Chi è che stava a parlare? Uno su YouTube, la faccio vedere. Ma non mi inviate digitale già. E anche ma c'è uno Ios Blank, non ti disturba in macchina, vabbè te lo tira fuori nuda, ma in me. Mi interessa una parecchia che macchina non disturba, se tu ci metti dall'An 48 Plus, in macchina fa prrrr un casino. Strano, ma quando sono un filtro? A casa è un bombo. Un piglia splatter e ti macchina è un cesso. Mentre invece ci metti quello che ha. Come ce l'ho ora. Che c'hanno gli Os Blanker. Che è un filtro praticamente per i disturbi. Ma si sente volare una mosca allora. Iaia. È un casino. Oh iaia. Vabbè. Vai, ma giù qua, non lo so, adesso vediamo. Adesso non ci ho messo molto qua. E poi si vedrà. E che non va, troppo. Ma poi non è tutto il coso, no? Di prenderlo, poi ci sono tanti problemi, cazzo. Andare qua, non puoi andare là, non puoi fare qua, non puoi fare quella, ma cazzo, piglia una continuità. Quello lì è... Sai quanto costa quell'apparato, Luca? 99 euro, più le spese di spedizione. Ti verrà 102, 103 euro. Allora, la facciamo vedere, CB radio. Aspetta. No. Anche il microfono è bello, la forma, un bel bettino. Ce ne sono altri, ce n'è uno della Lafayette che è bellino. Sono tanti baracchini belli, aspetta per una bottiglia d'acqua già. Aspetta. Non avete tutto qui salati. Mannaggia. Vediamo questo apparato. Ce n'è dello scianto. Ce n'è dello scianto. Sì, è bello. C'è anche uno della Lafayette che sta a 99 euro, sono regalati. Già l'ho visto quello della Lafayette. KK. Il moto deve essere fatica. No, sta buono. No, tutto. Andava bene. Dopo gli ha fatto il sicurezza, è il buono. Infatti asciuga pure no negativo asciugare pure e giù, si è meglio anche la roba, c'è quelle che asciugano dentro casa, quando la parte c'è quella che asciuga, che la poi asciuga, rimane tutta stropicciata, è brutta, invece fuori la bella, puoi stendere bene, allargata. Lo sai cosa è Gianni, e poi anche rimane bello girando anche il contattore. Infatti. Perché se arrivi la bolletta la pietra è pure ghiotto. Già sono cari avanti. Ma noi ci sono arrivati 300 e passai. Scusate, sta nel limite. Poi ci abbiamo tutto quanto la roba che consuma meno, classe A, però siamo attesi. Ma tutti i giorni ve lo scalda bagnando enti, vedo un'altra cosa ambienti, vedo di datelo, così poi consumo c'è. Non la puoi lavorare di sera perché la fascia oraria quanto capisco. Gianni, come si chiama quel conto? TT880 Dino Torino Imola 880 Outland. Vediamo che cosa ti dà. Carino, okay. Bello, vero? Ma tu su YouTube? Io c'è anche il Reddit. Ma non sai cosa si assomiglia già. Amica al conto sapete, allora ancora con conto. E insomma, bellino comunque. È bello sì, secondo me modula anche bene. Ma quanti canali c'ha? Sì, ma questo è tipo come il conto. Me lo fare chiesto. Pare già. Tanto te lo cupo. Ah, ti direi che non è male. Però che ne robe sai cos'è? Che non sto facendo per stare di male. Che cosa? Ah già. È quello che mi rode, è quello che non stanno facendo più le stazioni base nuove. Io già, perché adesso è... il pensamento è di farlo piccolo, di avere molte più cose di una stazione base. Oramai il pensamento è quello, perché la stazione base è come l'Italia di prima, cioè di prima era enorme. Adesso invece con poca cosa si sviluppa una potenza allucinante. Io per queste cose qua. Cavagano. Purtroppo la mentalità è quella, hai capito già? La mentalità è quella di costruirle piccole ma con grande prestazione. Già, capito mi hai. E hai tutto, capito. Mi sono cassussato, un gamero padrone si tocca la botta per la cotugna zoppa di lungo i gusti. Gappa. Stavo dicendo già che purtroppo la tendenza adesso, la mentalità è quella di fare la cosa più piccola però con molte più prestazioni. Ma possono farne anche qualche due stazione base con tutte le prestazioni che ha quello, ma base come il Galaxy, là, che ha tutto quello all'interno del Galaxy Pluto, però è grande. Ma purtroppo è così, che adesso la mentalità è quella, devono fare le cose piccole ma sincere. Pagato. È così, è come adesso che prendi, cosa ne so, un buon impianto, prendi di DVD e dolci e cassate varie. Sono quelle casse piccole, prima erano cassone grandi, erano tanti stereo enormi. Ma va con un buffer, cioè se lo prendi buono di qualità, tocca quanto hai visto, tocca, forse quello di più. in quella di là. Dopo siamo nell'era che è così. Ma comunque io l'ho visto mio già, una stazione base moderna. Penso che mi ricordo non qua, in America. E gli abbiamo caduto Gianni. Ma ci sono dei passeggi. Aspetta un attimo, scusa, faccio la porta. Ma no, no. C'è famiglia di Gollume. Sta passeggiando già. Attende una delle turrendi, ci metto vicino alla porta, c'è freddo in terra. Va a tenere la cuccia, c'è la coppetta sua. Gappa. È come quando facevano i processi prima, erano dei cazzoni enormi, erano. Ma con molto meno si sviluppano una potenza allucinante. Buonanotte. Tu c'hai il computer acceso? Ben spento, Luca. Bella. Poi vedere se c'era l'annuncio su subito.it. Qui c'è il modulo della radio. Ma la mano me la dà, non lo so. Gappa. Perché mi si è scaricato, adesso lo metto a caricare. Accenderlo adesso mi si spegne, capito? Allora, il computer si usa così. Quando c'è a casa, lo usi senza batteria. Ma lo devi portare fuori, magari di fare qualche cosa, che metti la batteria. Lo uso così, adesso il mio sta solo l'alimentatore. Capito? Quando non metto la batteria, lo portare fuori, la batteria dura 2 ore circa. Allora, sto qua già un po' di anni il computer. Però, adesso la batteria è carica, però l'ho staccata. E uso sempre l'alimentatore io. No, io la lascio sempre la batteria. Ah, la brucia, tu si rovina. No, questo è diverso dagli altri. Questo qua ha un sistema per la presente carica batteria del computer, del telefono, così si stacca da solo dopo aver caricato. E vedi i gusti, quando sono sbagliati, io la stacco poi. Mi dice così, è così, punto, perché questo alimentatore qua l'ho curato io, questo ha, quando arriva una stessa cosa va in verde, prima diventa rosso, poi diventa verde, e quando diventa verde si stacca da solo automaticamente, di che non si scarica, capito? Non si scarica attorno, lo sono riattaccare. Quando è tutto completo, ma anche acceso, quando lei ha finito la carica, dopo si stacca. Tanto, ma si utilizza di brutto, dico, di staccare la batteria, di usarlo senza batteria, perché la batteria la carichi più volte, si scarica, la carichi, poi a secondo ti può creare problemi, tipo il mio amico la batteria, solo se li crea lui la usava sempre con la carica batteria attaccato, gli blocca il mouse la batteria, c'è il touchpad, capito? E non è così, io dico mi stacca la batteria, informati a vedere, informati, si stacca la batteria, si rovina. E poi lì sempre non costa niente, usare cosa costa? Stacchi la batteria e usi l'alimentatore. Quando magari lo devi usare adesso un paio d'ore, che non vuoi attaccare il caricabatterie, allora prendi lo porti a letto adesso senza caricabatterie, tu usi la batteria, poi quando si spegne lo metti da parte. Quello sì. Però se lo devi usare come lo uso io uso tanto, lo uso solo l'alimentatore. No, io lo so perfettamente come staccata, non è che non lo so, no. Allora questo qua è un sistema che è diverso dagli altri computer, prima di tutto, perché non si crede mai. Questo qua quando arriva a quel punto si stacca automaticamente. Però si alimenta, se si può quindi alimentare, l'alimentatore allora si fa da alimentare, si alimenta il computer. Hai capito? è un pochettino diverso dagli altri, c'è l'altro che non è così, quindi te lo posso dire perché è così, poi non lo so. Eppure mi informo, puoi sentire, alcuni modelli sono così, sono. Non tutti, non tutti, attenzione, però alcuni modelli sono così. Ma non tutti, se uno va a comprare un computer a pagare 600 euro non è così. Non so se ce l'ha quel sistema lì, se ce l'hai così. Beh, il computer è paga quella... Oh, ti rendi conto che ho pagato un bel caro, però ho fatto, io quando ho preso questo qua, ho fatto un ragionamento, c'è un programma nuovo. Lo schermo non ti spacca gli occhi perché non è il PC normale, è a LED. Quindi ho fatto tutto il ragionamento, l'ho pagato pochissimo ma non me ne frega nulla. Però è uno piccolino, Io sono minorito, è piccolo ma per me va bene, non mi dà fastidio agli occhi perché è a LED. Sistema a LED, il nuovo sistema. Manco dalle balle. Qui su non si appassiva gli occhi per magari perché per andare te la facendo tu, però tipo Garucci, sono troppo piccole le scritte. Io è piccolo questo qua, il mio, ne da 15, capito? No, io mi sono abituato, non mi dà fastidio. Ti dico la verità. Gianni! Così, oh yeah. È tutta una questione d'abitudine. Io prima un pochettino soffrivo per vedere, per leggere alcune cose, ma adesso mi sono abituato. Non so. Non lo faccio. Io poi si guarda la stacco la batteria pure. Anche se il clima ha dato, lo usava sempre con la batteria attaccata, Diciamo la batteria è buona, però quella degli anni che ha è buona, dura un paio d'ore, capito? Poi qua, dopo che lo tengo io, un sistema operativo XP, questa batteria durava, guarda, non più di 2 minuti. Gandu, quando? Sono 2 minuti. Sono anche di meno. Minuti. Ma. Pagamma. Adesso riaccendo, mi dici dove devo andare per vedere questo tuo apparato che hai messo in vendita. Scrivi su Google, subito.it. No, ma questo riaccende. Tranquillo, sì. Cosa? Che va a Maratotti, virus, no? Ma cosa, figlio? Che antivirus hai? Ma cavolo si chiama, cazzo? Io c'ho... Ma mio è... C'è tanta gente. Beh, è una bomba, Alvira, un ultimo antivirus. Per essere un antivirus free, veramente doc. Scappa, questo è un attimino che si accende tutto il sistema. Bene, attimo spugno. Non essere troppo secco. Cosa? Che è secco. Che è secco? Allora, non si sente, se vediamo un po' cosa è cavolo. Se te l'ha pubblicato, ma la foto gli hai messo? Ma allora, per quattro. Non so, forse non l'ha pubblicato. Cosa ha messo? Zino, aspetta un attimino. Aia. È un capace di bere di ghiaccioli, pare. Tu parla a me, sei zitta. Morella. E così, Garantonio. Ah, domani cos'è? 5 e 5, così è. Sai che domani stacco le luci da qua, ma le conservo. Luci di Natale. stati qua. No, però fissate, se andasse via, no, cazzo, di anno vecchio. Per carità, va. No, che sia un anno buono, quest'anno. E se no, forse non rimane di viaggi. Cioè, facciamo i chiarinaghi, quindi è ben poco. Tanto la salute è ancora vecchi, ci che mancano. E quando uno non ha che le ripetono le cose, però fanno pure un bellino. Ok, dai, come si chiama quello lì? Allora, ICOM. Allora, aspetta. Se lo fa un casino tu. Allora, proprio che a me, aspetta. Quindi ti faccio una guida. Allora, aspetta. Questa lo facciamo così. Mannaggia. Allora, perché non me la fa vedere? Allora, subito.it, ok. Ma si richiama la pagina di subito.it? Mi sei detto su giù sulla tua destra, Sardegna. Ci sono. Che c'è la pagina adesso? C'è scritto tutte queste categorie, Sardegna, c'è? Ci sei? Sono già andato su Sardegna. Adesso proprio la pagina. Allora, ci sono tre stringhe, di cui una devi scrivere il nome dell'apparecchio, poi qua tutte le categorie devi mettere altri, ok? Poi su Sardegna devi mettere Sassari, ok? E poi da dove è vuoto ci riscrive lì il comici 207 che ballacchi. Allora qua c'è, penso che sia un motore di ricerca, qua c'è Sardegna e tutte le categorie. Altri? Cari vai su altri. Perché voi altri? Tu clicchi nella freccia, lo vedi, all'ultimo rimane. Adesso provo a schiacciare tutte le categorie. Non me lo dà, vedi? No, non me lo dà. Non me lo dà. Cercasi. Te vediamo un po'. Adesso cercasi. Fai altri. Ci ha messo altri. Sardegna, Sassari. Icon C200. 7 UHF UHF. Invece vada, getti in vendita a Sassari. Non posso, va? Come da? Non c'è. Non so perché. Ci vuole tempo, blu. Sicuramente. Ma se qua non mi dà nulla. Fa un culo, va. Perché se io vado qua, inserisci annunci, ma devo mi ha tutto nome e cognome, vedi? Cazzo, boh. Ah, come lo so del ballo, no. È tutto. Come lo fa a mettere allora? Poi c'è un'occasione, lo metto lì. È indietro, aspetta. Che è così? Non so. Devo farlo vedere a qualcuno che è più esperto. Capite? Ci inserisce l'annuncio. No, non c'è più i miei dati, rimangono, boh. L'occasione è chiusa la situazione. E cosa? L'occasione. È chiusa? Boh, quanto ho capito io, stavo dicendo uno che pubblica sempre la roba, dice che è chiuso per bene. Prova ci puoi telefonare. Ti fa scaldino questa radio, è smollendo sta. Ah, qua mi fanno le mani. Che freddo c'è lì dentro. Ma che? Tu fai da un trambo e pugni a manco per la sera. Ma consuma troppo al tuo, la stufetta. Ora mi ami si come tra un'ita e zitta. Ti ho pagato. Ma ho quelle piccoline da 800 watt, che faccio euro. Ma non è quello, consumano, cazzo, consumano. Oh yeah. consumano. Vabbè, poi sono nel letto, Puglia, va bene, scaldo al letto, Puglia, e i piedi che ci ho ghiacciati. Ho visto quelli della Max, costava 6 euro. Che mi sei bloccato, c'è? Già fa. E quale alogene? Non va bene lo stesso. Quale alogene? Sì, quello che consumava poco. Ah, vabbè. Ma allora mettermi una volta nel curico, non c'è problema. Già fa. Ma ci sto per noi, io per vedercelo accesa. Sto prendendo freddo, a certa ora, non penso che consumino tantissimo. Aspetta un attimo. Oh, iaia, perché è qua. E così la vita. Invece la vedi su Facebook. Cazzo, mi arrivano poco notifiche, mamma mia. Madonna santa, cazzo. Ecco qua. Poi se sono ma non so dove profilo aperto. Che l'ha aperto? Profilo aperto. Ragazza. No, che non ti ho visto. Se ce l'hai acceso. Che cosa? Le preso. Si blocca tu, quando mi chattano, 50.000, di salute, mi si blocca, non so perché, un attimo che si blocca sotto, hola, sei l'umido già, che non andai. Sì, guarda. Niente di particolare, va. E prendi lo Cristo, dai, mi ascolto. Tu vuoi sempre ascoltare, voi, siamo con voi, buia. Vi ha voluto dudinare, tanti voi sai cosa ha dudinato, che ne con computer. Diciamo che... se sta mettendo musica e sta ascoltando musica a basso volume già, e sa tanto uguale, non sento, ma la cura della musica, scusa. Gaffa, gaffa. Beh, logica normale, ognuno affonda, Tutto bucate gaffa, la torra da pacca. Non la rete, a me la salis, non sembra la Sardegna, ma me la Saris, ma la ridda è nulla, Sei buona tu, Ce l'ho vista già. Svagliata in terra? Ah? Svagliata in terra? Ma la ridda è su, ma picciolina, è bella, la ragazza. Poi di Urbia, io la Urbia, Italy. Ci fa adattare Urbia. Ciao, non che vai passare giù alla grande a quel piede, non è poco il nome, dove è c'è questa canzone? Dove? Su YouTube, basta YouTube, su questo profilo. Cosa vuol dire? Si chiama? Quello che hai pronunciato, Lionel Rich, cosa del genere, boh. Ma la canzone, la fa sei io, sei mi. Ma sto guardando già. Che anni è? La 80? Forse anche di meno. Di meno. alfa gappa. Come è qua? Non è un altro, due altri. Qua siamo ancora un altro. Quasi di sì. Che anno sei? 84. E io non vorrei se la dici a 77, 78. Ma te quanti anni hai tu? 36. Classe 1974. Ma non ti boccolo. Ma tu sei 80, hai detto? Un bel po'. Tu sei 80? Certo. Ecco, tu sei 1980? 4. Ti piace questa? Allora, 10 anni più di te, cioè. No, 74, tu 74. 74, ho detto. 84 tu sì, io sono 74, sono 10 anni. E va, non sei già. Quanti 6 anni vai tu? Io ho 26 anni, insomma. Io ho 86, faccio un corso di età. Che ho pagato, e tu vai a vedere che sei l'epoca lì. Ma, e tu si può dire che curato. E vabbè, gli anni passano, cacchio. Come la se passano? Gli anni che ne combinavo di tanto però. Ma diciamo un po' lì, in zona tua, circa allora, puoi pensare bene, 10. Ma lo conoscevi anche, ti avevo fatto Carpinuccio, ti ricordi che adesso è morto, No. E io lo conosci. Lui era chi su veniva quando tu rola, come ti chiama, Graziano, lo conosci? Sì. Secondo me una è di casia. Ma lo conosce Carpinuccio, io lo conosci da voglia. C'è una Fiat Uno, bianca. Mi pare già un lei non me lo ricordo. Come c'è la sorella Pina. Ma sono di un bambino. Mi sembra già un conto di vista. Vabbè, comunque, è capito. Favori, cosa di loro? Ai, ai, vabbè. Mamma mia. Vado i miei ghiacciati. Via. Nulla, ci sono la luce qua, cazzo che la ci lascia la bulletta. A Cendrana, gli evadiamo di Santo Lazzaro. Come magari a Cendrana su Facebook? Dimmi dopo, dai. Qua, è tuo pubblico. Via. Allora. Solo con cazzo, ragazzi. Ciano in blanco. Un po'. Così tanto. Fatto un po' vedere. Lui, primo che c'è sopra, così. visto. Per carità, guarda, Figurati, per le commissioni che devo fare domani mattina a casa dovrei uscire a piedi, perché dove devo andare, cazzo, la macchina dove la metti? Ma cazzo. Oioia. E tu domani esci? Io? E io? E devo fare quell'affare là. Ho visto. KK, quindi risultato negativo? K. Anzi, quasi per bugiare sono passato. Non si credeva molto le Dexter che non c'era l'altro dottore. Figurati. che imbecille. Dice, se poi manca c'è sempre il sostituto. Ho detto, no, non c'è sostituto. Dice, io non la voglio sbugiardare, ma il dottore ha detto così. Beh, se hanno detto così, così bisogna riferire. Pagappa. Ma infatti ho detto, strappi tutto e non ci vengo più. E ma tanto dice, un posto vale l'atelier, lo lascio. Se ce la fa, ok, se no, pazienza. Iaia, ma conviene che strappi tutto. No, ho detto strappare non strappa nulla, che lo deve dare al dottore dopo. Iaia. Ma che avanti anche. Chiappa. Dice che risolve la. Ci saremo stati in questo giorno. Non ci sa niente. Cerca di risolvere e poi di portare le palle subito. E fai dove devi andare. E infatti così farò. Ragazza. Lo so, bisogna dare molta attenzione. A chi dice già. A me un pochettino di. Cioè, circa una settimana fa me l'aveva detto una persona che sono. Quindi questi alberi che hanno messo sono una branca di esplosioni, dai, lasciamo perdere. Ma bisogna stare a fare le dichiarazioni. Adesso sono tutti con la puzza sotto il naso, dopo quello che ne è venuto fuori, sono tutti con la puzzetta sotto il naso. Oh, mi sa che io domani mattina, quando termino quelle commissioni, bisogna che mi faccia un po' di appostamenti giù in deposito. Perché? E lo sai che mi è venuto un dubbio, e dopo pranzo ho preso le chiavi dello stabilimento, ho preso la cassetta delle lettere e c'era il coso del pacco che sto aspettando lì nella cassetta delle lettere di deposito. Perché cosa avevi messo? L'indirizzo di deposito? No, io avevo messo l'indirizzo di qua, però una volta avevo acquistato, adesso non mi ricordo che cosa, balla, avevo acquistato, sto sempre cercando di fare memoria, ma non mi ricordo che cosa avevo comprato lì, coso, in internet, che me l'aveva ritirato un mio collega, e computer ha preso, coso l'indirizzo principale viale Porto Torres e l'indirizzo secondario, quello per fare l'ordine, è qui via Tiziano Vecellio, e il coso della spedizione ha preso l'indirizzo di viale Porto Torres, a te le immagini. Quindi lo devi ritirare questo pacco. E ho trovato la cartolina del primo passaggio e c'è scritto che il secondo passaggio lo effettuano domani, però io non so a che ora. E te lo porta all'SDA? Oh no, c'è proprio scritto coso postale ed è pacco celere 3. Ah vai da un po'. Cazzo, io qui come uno stupido cazzo tentando a casa il coso postale per ritirare il pacco, cazzo, te le immagini? Poi come sono salito a casa stasera, ho acceso il computer e in effetti era proprio come stavo pensando io, infatti poco fa l'ho corretto. Giuseppe, l'unica cosa da fare è andare alle poste e ritirare dalle poste. Ma non c'è specificato in che posta, in che ufficio postale è? Tu dove l'hai fatto il coso? Però bisogna aspettare che arrivi la seconda cartolina. Eia, sì, sì, perché nella seconda cartolina, se non ti trovano, ti scrivono che lo puoi ritirare da tale giorno a tale giorno e a tale ora. Perché nella cartolina che ho trovato adesso c'è scritto che domani 05/01/2011 si effettuerà il secondo passaggio. Bella un po', Buddha. E figurati, cazzo, anche quelle cose da sbrigarmi domani, quei documenti che mi devo fare, cazzo, ma guarda un po'. E vabbè, dai, non è così, così necessario quello lì, lo fai. L'interessante è che ti fai quell'affare lì dopo, i documenti già possono aspettare un giorno. Lo so, un giorno, però poi, cazzo, io lunedì rientro a lavorare e poi chi ci va? Lo so. Perché poi io ho ricevuto anche una telefonata stasera. Avanti, Giuseppe. Noi siamo tutti al poker. Ciao Lucchetto, buonasera anche a te. Ho visto le tue battaglie su Facebook. Stavo leggendo, ma non c'è nessuno lì che te lo può ritirare. No, se lo stabilimento è chiuso. No. E allora, noi riapriamo il 10. Così è. Cazzo, se no guai. Io adesso domani mattina vedo di sbrigarmi quelle poche commissioni perché nella prima cartolina, quella che ho trovato oggi, c'è scritto che hanno fatto il passaggio stamattina alle 10:15. Io prima di quell'ora, per forza di cose, mi devo far trovare giù. Già pagato. Non ci lasci un bigliettino alla serrata col tuo numero. Ci stavo anche pensando, però cazzo, quelli se ne fregano, mica mi chiama quello lì. Cosa deve chiamare? Ma io ci posso anche provare, ci posso provare, ma tanto io domattina sono in piedi presto, vado a farmi la prima commissione, dopodiché vado giù e me lo tento, perché se io non trovo la seconda cartolina nella cassetta delle lettere vuol dire che lui non è ancora passato, mi hai capito? Certo. Di fare la gentilezza magari o se no di fare uno squillo che verrà richiamato, capito? Che se proprio non vuole telefonare lui, di fare la gentilezza di fare uno squillo che verrà richiamato per vari motivi. E io glielo posso anche lasciare attaccato alla cassetta delle lettere quel biglietto. Adesso vedo un po', dai, in qualche maniera vedo di organizzarmi, perché tanto presto presto quelli non passano. Passano no. Io guarda, conto per le 9:30 di essere giù, 9:30, 10:15 in stabilimento, perché se non è passato mi piazzo io lì e lo aspetto. Ragazzi, vediamo bene. Eia, perché a me c'è il caso, è proprio l'alimentatore che mi serve, figurati. Certo, se no vai e te lo ritiri dove devi andare. Ma non c'è scritto nella prima cartolina, non te lo lasciano scritto dov'è il pacco, perché il furgone quando al primo passaggio non si trovano, il furgone non lo scaricano, mi hai capito? Giappa. Ma c'è ammesso non te lo dovevo, non sai dove devi passare, che è già passato eccetera eccetera. Può fare che lo ritraccia a forza di Maragana in tuo parco. Da qualche parte bisogna ritracciarlo. Sì, Anto, ma quello me lo lasciano perché oggi hanno lasciato la prima cartolina. Se non mi dovessero trovare domani, scrivono, è stato effettuato il secondo passaggio, il pacco lo può ritirare in tale ufficio dalle ore alle ore, mi hai capito? Però nella prima cartolina che ha lasciato lui stamattina non me lo può lasciare dove andare a ritirare il pacco perché domani deve fare il secondo passaggio, mi hai capito? Che pagato. Vabbè, per riprendere a già. Sì, gli da. Speriamo che coincida con la CC. Per forza già. perché se io quando arrivo la prima cosa che faccio è apro la cassetta delle lettere che c'è giù, no? Se vedo che la cosa, la ricevuta del passaggio non c'è, mi piazzo lì e lo aspetto, pazienza, e cosa devo fare? E tanto io la prima cosa che faccio, domani vado e mi faccio quel certificato, perché se poi quell'altro documento non ci vuole, basta solo la patente, quello non me ne frega niente, mi hai capito? Io domani mattina alle 8, 8 e un quarto mi faccio trovare lì da coso dal medico e quello in 10 minuti mi fa tutto se sono il primo. Anzi, faccio di meglio, alle 7 passo giù in viale Porto Torres e dico a quello del rifornitore di darci uno sguardo ogni tanto, se vede quello delle poste che me lo ritiri lui. E anche così puoi fare. Eia, così almeno vedo un pochino se riesco, o lo becca uno o lo becca l'altro, mi hai capito? Se non riesci a lasciare il pacco al rifornitore di fronte. Kappa, ma se sta piovendo questo foglio, cazzo, mi si dice, cioè che cosa ne viene fuori domani, mi hai capito? Ecco, è vero, si fa tutto a ciò. Io lo posso anche scrivere, mi, dopo come stacco da qui lo scrivo e glielo attacco, non c'è nessun problema, figurati, perché cavolo interessa anche a me, quello che c'è dentro mi interessa, perché io adesso i due cosi ce li ho spenti qui giù, se avessi avuto lui, guai. Se non vado le rapide, già si risolverà quello, dai. Già, se non lo risolvo domani... Se non lo risolvo domani, vado a ritirarlo venerdì mattina, a casa non muore nessuno. Infatti. Vai avanti, Lupetto. Vado avanti, via. Per piedi di ghiaccio, mi sa che ci infilo la posta dell'acqua calda ai piedi, cioè piedi ghiaccianti. 5 minuti di bianco, arrivo subito. Cava, prenditela tu allora, bombole. Cappa. Ma, vediamo bene. Deve avercela in consegna. Dovreste capire perché questo passaggio. È quel passaggio perché il mio computer ha preso un indirizzo che avevo utilizzato l'anno scorso per consegnarmi una cosa che avevo acquistato in internet. E io come indirizzo ho messo questo, soltanto che lui il computer ha fatto di testa sua, soltanto che sto facendo memoria che cosa avevo comprato e sai che non mi ricordo. Invece avete comprato il paracchinetto? No, quello lì era arrivato qui, il pacco, quello me l'aveva ritirato Lella. Era un qualcosa di piccolo che ha ritirato quel mio collega, quello di Porto Torres, che avevo lasciato i soldi a lui. Però cazzo, sto cercando di fare memoria. Ah, lo sai che cos'era tu? L'antenna magnetica, ti ricordi quell'antenna magnetica piccolina che avevo? Non l'ho mai vista. La calamita, non te la ricordi quella che usavo nell'appunto? Ah, l'ho vista una volta solo. Quella lì avevo ordinato, quell'antennina lì. E lì mi ha pregato che è rimasto l'indirizzo delle cose, di stabilimento. Perché io come indirizzo ho messo qua, via Tiziano. Si appagava. Sicuramente. Presso magari... stabilimento. Può succedere. Eia, comunque io stasera come sono salito a casa l'ho cancellato quell'altro di indirizzo, così almeno se c'è una prossima volta non mi frega più. Comunque adesso vediamo domani se tutto va bene, se no nel caso mi avvicino io venerdì mattina alle poste, lo ritiro, non è quello il problema. Da fastidio comunque. E certo, da fastidio sì, anche perché io stamattina, figurati che ero qui a casa aspettando il coso, il passaggio del postino. Non lo sapevo. E poi, dopo pranzo, mi è venuto un dubbio. Ho detto, ma con la scusa di andare giù in stabilimento a dare uno sguardo, prova a vedere se c'è posta, perché c'avevo quel mezzo dubbio, però ho detto è impossibile perché io ho scritto la via di qua, proprio l'ho scritta io con i tasti del computer, hai capito? Invece mica c'era la cartolina nostra lì dentro. Io l'altro giorno sono passato, mi sembrava aperto un tappeto. Spero che non sia sceso il ragioniere a dare uno sguardo così. Io stasera ti dico la verità, sono sceso, però poi il cancello, anche se ero dentro, l'ho richiuso, perché se poi vedono aperto entrano. Avanti già. Paga, ma vai da un poco, meno male che si è passato, se no sarebbe andato in cavalleria, l'avrebbero rispedito indietro. Eia già, ma poi mi è venuto questo dubbio, e niente, ti ricordi quando abbiamo terminato il QSO? E lì poi, quando ho chiuso, stavo rimuginando, e ho detto, sarà, può anche essere, però poi ho detto, ma l'ho scritto io personalmente sul coso dell'ordine, qui Sassari è la via dove abito io. Però poi ho detto, con quella scusa vado e mi controllo lo stabilimento se è tutto a posto. Ho dato una controllata in tutto il coso, poi ho preso la chiave della cassetta, perché c'era la cartolina dentro. Alle 10 c'è anche l'ora, alle 10:15 dice che è passato. E tu sei più o meno alla stessa ora, Giuseppe. E infatti è quello che voglio fare, mi hai capito già, perché io adesso domani mattina la prima cosa che faccio è mi siedo in macchina, vado giù da Antonio e gli dico che se vede il furgone postale che lo blocchi e lo ritiri lui il coso, il pacco, hai capito? Io uscendo presto, quando vado a farmi quel certificato, non credo che ci voglia una mattina, no, se sono uno dei primi. Dopodiché mi precipito lì in stabilimento, tanto le chiavi già ce le ho in macchina e lo aspetto lì. Ma speriamo di no, Giuseppe. Ma speriamo bene, se no tutto al più mi lo ritiro venerdì e cosa bisogna fare? Adesso speriamo che le cose coincidano, i tempi coincidano, perché se era stato aperto lo stabilimento problemi non me ne sarei messo perché me l'avevano ritirato loro, mi hai capito? Logicamente che sì. Certo, pagato è tutto. Sì, è solo da ritirare, non c'è da pagare niente, è stato tutto pagato con tramite quella carta che ho, tramite internet. Cappa. Ed è buono così, già. Cappa, basta andare e ricudi una rasciata, Anto, una rullata di quella carta lì e su che andiamo. Ma cappa. Se andava tutti, dimmo, anche se sta trattando dove è qualcosa, può interessare, si compra. Ma è già è gente seria perché mi ha mandato anche diverse email di stare tranquillo, dice non mettere dei problemi perché dice siamo gente seria, dice ci siamo tanti anni qua su eBay e nessuno si è mai lamentato con noi. Perché loro mi hanno risposto a un'email che gli avevo mandato io, che volevo sapere quando spedivano il pacco di mandarmi un'email, mi hai capito? L'avevo fatto. Sì, mi hanno risposto esattamente dopo 20 secondi, l'ho proprio cronometrato. Ma è giusto che un'azienda tratti bene il cliente. Che poi magari anche se c'è un articolo che costa anche guadagno 10 euro in più, però lo compro da te perché so che mi stai trattando bene. Uno la pensa anche così. Soprattutto così, Anto, perché io ho visto questo qua che nel negozio che ha c'è un sacco di roba, dalle antenne, ai baracchini, alle RG58, ai PL, a tutto quello che può servire a noi. Se vediamo questo alimentatore, cos'è un Proxel? Sì, Proxel le switching da 32. Già, poi c'è quello con lo strumento che stavi così. Ehi, ehi, quello che hai visto anche tu, Mianto. Che bellino quello. Ehi, è simpatico perché c'ha quello strumento che è tutto colorato. Già andava. Adesso vediamo, andalo proviamo. Se va la grande. Eia, eia. Così mi alimenta bene le altre apparecchiature, Anto. E siamo a posto. Perché uno di questi lo tengo stesso. Uno dei, diciamo, dei, tra virgolette, dei vecchi, anche se vecchi non sono, e con quello là invece alimento a lui. Purtroppo quando comincia a spingere, consuma, ci vuole un alimentatore diretto, così te li manda all'inizio. E infatti, perché poi, hai sentito, stava facendo quel problemino dell'alternata. Sì, no, è ben logico perché è mandata lì, ma è tutto invisibile, si sente poco proprio, ma devi mettere l'orecchio. Ma è perché proprio se lo manda al massimo. E va nei limiti, logicamente però lo fa. E tanto, ma comunque il sogno mio era di riuscire a prendermelo e ci sono riuscito. Dai, piano piano, stiamo dando un colpo all'incudine e uno al martello. Ragazzi, purtroppo bisogna capire che quelli lì è roba che devi sviluppare, devi assorbire pure. Eh beh certo, perché poi così secondo me sta anche lavorando male, anche se sottoalimentato non sta, magari non sta dando quello che deve dare, Mianto. No, diciamo che non è neanche sottoalimentato, nei limiti è quasi al massimo. Diciamo che siamo quasi al limite di accendersi la spia. Ragazzi, così è. Diciamo che lo porta lo stesso, però è quasi lì. Vabbè, adesso se Dio vuole abbiamo risolto anche quel problemino, Anto. Poi adesso vediamo di risolvere quell'altro che deve partire nella zona di Cagliari e così abbiamo fatto 30 e 31. Ragazza, perché se lo metterete in base laterale non ce la farebbe più. Hai capito? Lo butto giù con l'alimentatore. Ma che minimo lo facendo il calcolo, minimo sono il doppio. Ehi, in banda laterale è il doppio sì. E il doppio sì e l'alimentatore me lo spegne. Vabbè, fai forza di nuovo. Poi più ne era in Grecia più malasoce. Più va, 5 è già un certo assorbimento, a 10 ne è un'altra ancora, c'è così, e va al massimo degli amperi anche. Certo, ma quello lì da 32 sono sicuro che me lo regge bene. Sì, a voglia che te lo regge bene. KK. Hai visto piano piano abbiamo iniziato Anto. Con un'antenna che ce l'avevo appesa qui alla finestra. E adesso ci abbiamo preso anche l'alimentatore. Piano piano, un po' di mesi ci sono passati, ma già me l'ho preso. Comunque anche quelli che c'è lì già hanno fatto la sua parte. Cavolo Anto, questi mi hanno aiutato alla grande, cavolo, stiamo scherzando, questi si valgono tanto oro quanto pesano questi due alimentatori. E quello piccolino ancora ce l'hai, Giuseppe? E quale è quello piccolino Anto? Quello rosso, te lo ricordi? Quello rosso? E quale Anto? Il più piccolo di quello che hai. Non mi ricordo del rosso, non ne ho mai avuto io di alimentatore rosso. Sono un po' vedente io di alimentatore, no? Come te lo vuoi chiamare, violetto? Tutti i nomi. Ma il 747? No, no, ho sempre quello lì, quello che avevo preso alla GBC. No, quello è quell'altro, non te lo ricordi più. Ah, sì, quello è quello violetto. No, quello no, quello era tutto quanto, si è tutto quanto imballato. E ci devo pensare un poco. Vero? Sì, appena. Se davi due modulate con quello, cazzo, usciva il fumo. Ma si è scaldato molto. Poi è scaldato molto. Due colpi di coso, di Mike, cazzo intendia che fiumi acqua, ci ho detto, ma cos'è, cosa non è. Cazzo, mi giro ed era pigliente il fuoco l'umobile. Ah, quindi si è bruciato. Sì, appena. L'ho lasciato raffreddare, cazzo, se era già cotto nero coso della mondezza. Cazzo, ho dovuto aprire le finestre a casa. Cazzo, un fiago di bruciato, di bobina, di cosa bruciata. Mamma mia, cara. Bruciato il contrario. No, quello era fisso. Fisso, stava funzionando bene, soltanto che faceva sempre quel rumore strano dentro e in più, come gli davi due colpi di portante, scaldava subito. Vabbè, un pochettino anche questo scalda, questo che ho io, ma che taglio era una cosa che non si gridia. Quindi tu dovevi vedere cos'era, tu dovevi vedere che cosa usciva da dentro di fumo. Ehi, ho provato a vedere lì dalle cose, dal tappo, quando ha raffreddato un po', ve n'era poca di cosa scoppiata dentro. E allora, infatti ho fatto, buttandoci quello, lì domani mattina sono andato da Tonino e mi ho preso questo. Ehi, ma poi Anto, anche quello là aveva lavorato, era usato e tutto cose. Questo l'ho preso nuovo e ha già visto che andava. Già sta girando bene anche questo, Anto. Questo qui lo stesso mi. Quando si fascia, piglio e tiro rampo. No, io sto buono. E tanto mi, se lo porti a riparare ti costa più a ripararlo che a comprarlo nuovo. Sta pagato. Ma bruciavano di lì, se è un po' carico di tutti. 747. No, ho visto che questo qua anzi è anche silenzioso. È silenzioso, non dà nessun coso. Che dato va zia come ti aprivi il mic, va zia dentro, pari a gas uno di quei motoscafi che passano in lontananza. Allora già ha funzionato un po', però poi chissà che palla gli ha preso, cosa vuoi che ti dica, sempre così apparati elettronici sono mi. Ma comunque, due uova già me le ho cucinate. Però con quella giustina piccolina con la staccata già andava. Ehi, già me lo ricordo. Scappa. Ma si vendono ancora con i piccoli. Ehi, ce n'è anche su eBay. Adesso me ne sto tentando uno che voglio mettere coso nell'ABM. Vediamo un pochino se riesco a beccarlo. Scappa. Ma tu mi sei qualche altra antennino su un piccolo per l'altra parte? Sì, per l'altra parte metto un'altra antenna, fare una calata piccolina e così sono a posto, così non sto ogni volta da una stanza all'altra. Guarda, ma quando sei lì, hai molto di intendere. E allora, adesso mi faccio fare una calata lì, poi me ne faccio fare anche una in bagno e ne metto uno in bagno sulla scarpiera. Addirittura. Eia, così gatte attacchi a secchiere a burro da inchivi. No, vabbè. No, magari per l'altra zona. So che qualche volta stai lì, sai, quindi magari ti serve, dai. E cavagava, lì mi serve sì, Anto, mi serve sì, perché quella è la zona X. Ma pagato, ma non neanche tanto per anche per ascoltare. Eia, è perché io adesso mi appena riesco a liberarmi un pochino, là voglio sistemare qualcosina di fisso, lasciare qualcosa di fisso là, mi hai capito? E poi se capita anche col portatile lì, anche per farlo girare un po', lo posso attaccare. Più che altro portatile, non è solo per così dire. E via, ti puoi anche un attacco a sindicare, fanno sprecare le batterie, così le batterie e vai con quello. Eia, infatti uno di questi, di alimentatori, lo devo mettere in quel cassettino scorrevole che c'ho nel mobile in cucina. Dove era prima? Ciao. Un'antenna piccola, tanto già arrivato un affesso il tuo computer. Eia, ma io ho intenzione di sfruttare addirittura il palo dell'antenna mio, figurati. Sì, quello tuo, lì. Tanto c'è come da prima, bella dritta, via via. E allora, faccio fare una tappetta, ce l'attacco lì, mi compro un rotolo di coso, di vulcanizzante, perché quello l'ho terminato per il BL di su, mi hai capito, Antonio? Che fregata. Tanto va bene pure un attorno, fai visto. Da voi, se vuoi, lo puoi anche aiutare a Venezia ancora meglio. Ma comunque, sono un portatile, cioè a voglia che anda. Eia, infatti una di quelle mi voglio mettere, Antonio, voglio piattacchi la cosa, no? Ma sei tranquillo che con quello lì ti sentono, come ti ha fatto una bastona? Ce l'ha sul petto. Quando deve parlare col tuo vicino di casa, usa quella. Eia, e così sto facendo io. Metto quella lì, una Storm, si vede poco, è tranquilla, è cosa leggera, senza che anch'io a fare un coso d'antenne lì, se no poi è troppo vistosa pure la cosa. E già va bene così. Cosa? Se andava bene prima non va bene adesso. Già un credo già. Ti ricordi quando uscivo con la Storm? Ho vedato tutto. Cava, con quella ho incominciato, mi si può dire, Anto. Eppure andava bene. Un baracchino normale, se lo vedi, andava. Eia, avevo quell'antenna lì sul tetto, il baracchinetto piccolino, e andavo lo stesso, tanto. Quello per quello che serve, non è che ti devono sentire a New York, no. Quando ti senti qui in città ti fai la chiacchierata tranquillo, a me di arrivare come molti, cazzo arriva Olbia, chi dà che dice arrivi a New York, chi dà che non so che ti devo arrivare, a me proprio non me ne fotti nulla. Io quando riesco a parlare qui con gli amici in città va più che bene, altro che coso, non ne ho di coso d'arrivi a coso, no, a Macomerre, a Nuoro o dove cavolo arrivano. A me vedi, qua ci facciamo una chiacchierata così, va più che bene. Ciao. Va bene. Diciamo che la manco qua è tutta un'altra cosa. Allora, quello lì non dispiace, perché alla fine stai. Vai lo stesso. E allora Anto, ma poi guarda, mi sono reso conto che uscivo bene anche prima con la Storm, quindi figurati. Che pagato, un baracchino e via, cioè, vuoi anche per la fragona, non per... cioè, magari quando sei lì, ma anche per modulare l'altra parte. Molte volte se mi viene la gana e decide di stare perché non ti sento nessuno. E infatti, uno me lo lascio fisso lì in cucina, gli ho già trovato il posto, fatto fuori il 48, il microfono stesso, tutto quanto, il posto per l'alimentatore ce l'ho in quel cassettino scorrevole che c'è sotto e tutto quanto a posto. Si è appagato, allora, almeno è tranquillo. Quale è il buio? Entri da lì. va bene lo stesso. Tanto prima andavano a pezzi, cos'è? E allora, quante modulate mi sono fatto da lì fuori? A voglia, come l'antenna. Non se puoi, ma guarda che se vuoi arriva lo stesso a me, non è che se con Santiago più basso nei posti, ma arriva lo stesso. E da poi puoi farmi appena per 20 indigni, entro addresso, mi stacchi 2 minuti di soccorso e vede che ti stai, che matte per poco vuoi fare. Ma dentro città li aspettano tutti. E hai voglia, già va bene così, già va bene, Anto. Ce ne sono di grosse pretese, ti ripeto, quando riesco a parlare con gli amici, basta e avanza, curati. Ma qua ti arriva quella là. Che cavolo, è di lusso quella lì, per città guarda è un amore quell'antenna. Ho voglia. Poi se tutto va bene portiamo fuori a Gigetto. Stacchi già tocca, ma puttinoso. Ah no. Ma si allunga almeno mezzo metro in più. Eia, eia. Già anda bene, Anto. Ma gaffa. Ma con 5 vatti si tornerà per tutto. Ehi, hai voglia. Ma poi sono sicuro che col 48, con la Storm e di lusso, si sposano bene tutte e due. Ho voglia. Sì, perché io l'ho provato e stavo uscendo col baracchino che tengo in camion e va benissimo, cioè andava benissimo. Quello va più bene. Eia, eia. Infatti ho intenzione di portare fuori uno di questi due, uno dei due 48, e niente, lasciarlo fisso lì fuori. A calata avevo poca palla, non è che... è roba tranquilla, leggera. Poi la calata, guarda, sono sicuro che facendo le cose fatte bene in mezz'ora si fa tutto. Perché sennò è roba facile. E poi addirittura su, se non mi ricordo male, dovrei avere ancora quel palo telescopico che avevo comprato alla GBC. Dovrebbe essere su in soffitta. L'hai lasciato lì? E mi pare di sì, se non l'ho dato, perlomeno, io mi ricordo di non averlo dato quel palo. E dovrebbe essere lì sotto. Guardi. Se poi l'ho dato, pazienza, non succede niente. Mi pare che ci sono posti liberi lì, vero? In che senso, Anto? Non liberi ci sono. Non ti ho capito. Sono pali liberi di antenne dismesse. E qualcosa già c'è dove già si trova il posto per metterla, non è quello il problema. E volendo la potrei mettere anche dove l'ho messa prima, lì vicino al cordolo, che c'è proprio il posto suo. Però metticela lì, c'è il gatto di Napoli. Ma era per non metterla proprio in vista, non vicino al cordolo. Io l'avrei voluta mettere attaccata al palo della mantova, tanto non gli fa niente. Cosa le fa? Nulla, gli faccio fare una staffa L e il gioco è fatto, salgo già con le cose pronti, non devo far altro che avvitargli la staffa e gliela isolo, salgo già con il PL già vulcanizzato da qui, mi hai capito? E poi faccio la calata direttamente. Gaffa, gaffa. Ma lo sai cosa ti vuoi affaccio? E che cosa? Mettono il piccato, vuol dire una cosa in fretta. Mettono il piccato, fa il culo. Ma per la calata? Oh, mettono il piccato. Sì, non ti preoccupare, non fa niente, non è un problema quello. Quindi hai capito, per farlo già ci vuole poco, non è che ci voglia... Adesso aspettiamo un attimino, come migliora un pochino il tempo, perché salire con le tegole bagnate non fa perché si spaccano. Ho sbagliato. Adesso metti in quell'angolino magari. Ehi, la metto lì, non è che devo fare molta strada, no? Metto lì vicino, per scendere il coso, il filo vicino al coso delle, dell'acqua e me lo porto dentro. Ragazza, l'unica cosa che si può fare, sai cos'è? Si smette viaggiando, credo. Perché, Anto? Perché se tu per esempio vai attaccato alla mano, sei modulato con la mano, e vai attaccato con un lastobiello attaccato, ti manda a smettere così quando parla. Ti faccio girare. Ah sì, beh, quello sì. No, vabbè, ma se sto usando uno, l'altro è spento. Pure è spento, ti faccio girare lo smettere. Te lo faccio via a coso. Lo fa. Adesso lo fa un pochettino di meno, proprio perché ci ha messo quell'antenna, ma se tu la appoggi a quel palo lì. Sai come ti sei fatto io, Giuseppe? Vedi, loro subito l'altro baracchino andando che si muove. E vabbè, ma tanto già gli stacco sempre il PL per sicurezza, perché mi... adesso come stacco anche questo qui non lo lascio mai attaccato. Gappa. Ah, comunque, facendo quel lavoro lì, ma la grande, ma io te l'avevo detto, la stessa tutte e due. Una se la passa una terra e una se la passa all'altra, e non mi è voluto dar retta. Ehi, vabbè, ma finché c'è il rimedio, Anto, già si può rimediare. Male quando non c'è. C'è il rimedio. Ehi, vabbè, comunque, se c'era stato adesso non avresti avuto il problema di salute. Anche quello è vero, anche quello è vero, però, ma già Misani, già in qualche maniera già pareva. Vabbè, quello è il lavoro di poco conto, è attacchi, quindi d'estate e via. E infatti il lavoro più grande è stato piazzare questa qua, questa grande, tanto non me li voglio ammentare a sapere. Io una rottura di spalle. Cazzo appena, cazzo una dintrea in chivi, cazzo ne avredo, cazzo, mamma mia. Se sbagli sono cavoli, già l'hai pagata. E poi tutto per che cosa? Per uno sbaglio. E allora? Boh, sto dicendo qua, non me ne voglio ricordare, cazzo, c'avevo un coso, cazzo, era attente con un seghetto a rampagni tutto canto in terra. Ma meno male che poi avevamo... ragionato, cioè c'è stato un pochettino di ragionamento, è andato tutto bene, no, Giulia. E infatti è perché poi lo sai cos'è, subentra la stanchezza, anche il giramento di scatole, da poi non comprende più nulla. Ragazza, è tutto per uno sbaglio del cazzo, guarda, volevo dire. E lo sbaglio è stato di averla appoggiata e deve essere si è spostata appena appena e non me ne sono accorto. Lì ha toccato appena appena la carica e si è girata. Soltanto quando sei lì su, Anto, devi stare attento a dove metti i piedi, devi stare attento a non scivolare, devi stare attento a non scendere dal tetto, devi stare attento a non mille cose. Eia, era una cazzatina, stava toccando un ribattino, infatti è bastata girarla di un millimetro ed era tutto a posto, hai visto? Allora, è solo che quando le cose non le sai. Adesso che si sa, vedi, anche quello è servito da coso, da lezione. Adesso che le cose si sanno, alla prossima volta si controlla bene prima di tirarla su. Via, perché non mi ricordo le volte che ne ho sceso e risalito quell'antenna, cazzo, per contrarre quella carica al giorno. Pagava. Razza di tutti, stai impazzendo al giorno. Se ce la stavo buttando giù dal tetto, figurati. Ha già detto da sotto e tre, mi, cazzo, va secondo tu, beh, arrivati a un certo punto, poi... cazzo subentra la stanchezza, il nervosismo e da poi non faccio più vabbè, e pure il domani a mente fresca è stato un pochettino di ragionamento e infatti hai visto poi aver riposati e abbiamo sistemato subito la cosa. cazzo ti succede? Cava cava, avanti ma cocca tanto. Ma buonanotte Giuse. Positivo, buonanotte Anto, buon trabacco per domani. Noi ci sentiamo domani pomeriggio vicino a te, che avvicino la macchina da zoniare. Ragazza. Eia, ciao Anto, buonanotte, ciao. Ciao da grande Tony. Positivo e K di Rosmetro. Ciao Anto, buon 144. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti.